FM. Buon Natale. Allora, intanto tu che cosa avevi promesso? Che oggi volevi fare tanti auguri, mi pare, alla mamma, eh? Allora vuoi dire o devi guardare là, eh? Allora fagli tanti auguri di Buon Natale. Tanti auguri. Ecco, tanti auguri per la mamma. E poi a chi li facciamo anche gli auguri? Li facciamo a Nicolò, no? Ecco, fagli tanti auguri, Nicolò. Tanti auguri a Nicolò. E poi chi altro vorresti fare gli auguri? Ci sono tante. Come i nonni. Ma come, ti eri preparato tutto un discorso? Vedi che ti sei emozionato, ti sei già dimenticato. Allora vediamo di fare perlomeno gli auguri a tutti i nostri cameraman, perché anche loro sono lontani dai loro parenti. Magari hanno i loro bambini che sono a casa e vorrebbero che fossero con loro. Allora fai tanti auguri a tutta l'equipe di Telemilano. Forza, dillo. Tanti auguri a tutti l'equipe di Telemilano. A tutti l'equipe. A tutta l'equipe di Telemilano. Non bisogna fare le papere, fallo ancora una volta. Tanti auguri. Tanti auguri a tutta l'equipe di Telemilano. Bravo Michelino, sei stato veramente eccezionale. Un giorno, quando io cederò lo scettro di presentatore, faremo te presentatore, va bene? Vi siete mai chiesti perché Lemmy Kilmister scelse Motorhead come nome della sua formazione? Sì. Forse perché, come ipotizzato nella soluzione A, testa di moto è l'appellativo utilizzato per gli appassionati di moto e tutti erano appassionati di motociclette? Beh, direi nah. Però, interessante, un nuovo epiteto, un nuovo modo di offendersi. Però è interessante. Se ci incontriamo per la strada e siamo due biker, io voglio offenderla. Testa di moto. Bravissimo, lei mi ha capito. Ma ipotesi B? Era quella dove si diceva che Motorhead era l'appellativo col quale Lemmy chiamava suo padre, meccanico specializzato in motori di Harley Davidson. E allora, la soluzione esatta era la C, Motorhead. Esatto. È la traduzione inglese della parola americana speed freak, una persona dipendente da speed, e Lemmy, essendolo fortemente in quel periodo, decise di chiamare la sua formazione Motorhead. Segnaliamo anche che il nome Motorhead compare per la prima volta come titolo di una canzone degli Hawkwind, scritta dallo stesso Lemmy, band nella quale militava Lemmy Kilmister prima che i Motorhead. Bravi se avete azzeccato, altrimenti studiate! Informatevi, fate tutto quello che potete, accendete il computer, entrate in internet. Ma soprattutto, chiedete. Ascoltate Pane, Burro e Rock and Roll. È la soluzione migliore. Rimanete, restate, ancorati, in contatto. That's the way I like it, baby. I don't wanna live forever. And don't forget the joke. direbbe il nostro piccolo francese Metal Ace of Spades, Motorhead. Tra l'altro non fatemi nominare francese, che ieri ci ha combinato un casino con Mox Cristadoro che non potete immaginare, e che tra l'altro la nostra piccola peste di riferimento anche questa oggi è negli studi. Per fortuna fino adesso non si è fatto sentire, faremo di tutto per non farlo avvicinare al microfono, perché combina veramente solo pasticci. Buona giornata dall'Ariele, questa è Pane, Burro e Rock'n'Roll con Spadino, Fricantoni e la nostra redazione. Entriamo ufficialmente nell'ultimo blocco, nella rush finale della puntata 149, e al volo, in speciale Buon Natale però no, però Rock, Spadino mi fa gesto che dobbiamo cedere la linea al Duse Giant Center, il centro commerciale che ci sponsorizza in queste due settimane di speciale Buon Natale però Rock, dove il nostro buon Fricantoni, per arrotondare un po' lo stipendio, fa Babbo Natale. Oh là là. Il centro commerciale Duse Giant Center vi augura buoni acquisti e vi ricorda che nel reparto bambini troverete Babbo Natale in persona, pronto ad accogliere le richieste dei vostri bambini, accorrete numerosi. Ciao Angioletto, che carina. Dai, su, di tutto quello che vorresti a Babbo Natale. Voglio il treno della Coca-Cola che hai in TV. Ma veramente, io ho le renne e quello della pubblicità non è poi il vero Babbo Natale. Allora voglio l'orso della Coca-Cola che hai in TV. Bimba, niente orsi per Babbo Natale, sono quello vero. Allora voglio Spider-Pork dei Simpson. Ma invece non c'è qualcosa di utile che vorresti, che so, delle matite colorate, uno zainetto nuovo, un libro profumato, un diario? No, non voglio niente di utile, voglio il mulino delle merendine. Ma che cosa te ne fai poi? Invece pensa, un regalo che poi potresti usare e ti servirebbe. No, non mi serve niente. Ah sì? Beh, invece credo proprio che tu avresti bisogno di qualcosa, qualcosina di utile. Come una R normale, per esempio. Dai, su, fai con me un esercizio. Prova a dire burrone. Burrone. Adesso prova a dire ramarro marrone. Ramarro mar... Papà! Ma come si permette? Lei sta facendo piangere mia figlia. Ah, lei sarebbe il padre. Sì. Cosa c'è da ridere? Avanti un altro. Che spasso. And those rumors ain't traco, traco, traco. Rispondono al nome di Cheap Tricks e questa è Dream Police, come dicono anche nel ritornello più e più volte. Allora, torniamo su... Oggi puntata retro quella di quest'oggi, eh? Puntata dove risentiamo i nostri vecchi amici, perché si fa un gran parlare in questi giorni del calendario 2008, l'anno della svolta, il calendario di Rock FM, di Pane, Burro e Rock and Roll, ma noi era mesi che ci stavamo occupando dei calendari. Due erano i nostri redazionisti, Rosy Milano e Yuri Ravena. Trasferiamoci da Yuri. Ciao Yuri. Ciao Ariele, buongiorno a tutti. Il nostro camionista di riferimento che alzava l'audience di Pane, Burro e Rock and Roll facendovi vedere le donne nude. Oggi avevi una segnalazione natalizia, però? Sì, anche. Che cosa? Un Babbo Natale alla guida di un'ape con la Befana dietro nel cassone. Ma fermo, spero. Sì, sì, è parcheggiato nel cortile di una casa. Per chi è della zona, è nella strada che collega Alfonsine a Fusignano. Hai capito? Quindi babbo... ci vogliono passare. Sì, non è male. Ma ci sta il Babbo Natale nell'Alpino? Oh, lui là la guida. Ce l'ha. È la Befana. Vuoi sedere sopra la capota dietro nel cassone? Perché passandoci. O guardavo la strada, guardavo Babbo Natale, sennò. Beh, decisamente rock come segnalazione, non male. Dovrebbe essere un buon consiglio anche per chi ho un'ape lì che non sa cosa fare. Metteteci dentro un Babbo Natale e una Befana dietro. Ma occupiamoci del vero compito del nostro Yuri, camionista da Ravenna. Ci avevi promesso un Babbo Natale, o meglio una. Sì, la Babbo Natale. La Babbo Natala. Esatto. Perché c'è ovviamente anche un calendario con una Babba Natale. Sì, esatto. Ma su tutti i mesi o solo a dicembre? Solo a dicembre era. Solo a dicembre. Che calendario è? Sempre di quelli tuoi. Sì, sempre quelli. Il giro dei garage lì. Sì, esatto. Va bene. Caro Yuri, faccela vedere! Ma niente, praticamente lei. Ha dietro l'albero di Natale classico con le palline, le lucine e il puntale. Sì. Tutti i pacchi davanti. Sì. Lei a sedere su un pacco. Sì, essendo lei caratterizzata, come è caratterizzata da Babbo Natale? Ci avrà il cappellino. Al cappellino e gli stivali di pelle. E basta. Basta. E tu dici ci basta per farla diventare un Babbo Natale. Albero di Natale, pacchi, cappellino da Babbo Natale, stivale da Babbo Natale. Cosa vuoi di più? L'unica differenza è che è mora. Esatto, perché Babbo Natale è bianco. È bianco. Per il resto può funzionare. Vuoi andare un po' sui particolari? Mi raccomando, Yuri, sempre i particolari delle 8:43 del mattino, se si potesse. Beh, diciamo che è una terza, naturale. No, Yuri, adesso ti butti anche sui numeri. Di solito no, sì, tu sei sempre stato... dicevi te che volevi naturale o artificiale. No, hai ragione, tu sei troppo preciso, una terza naturale. Sì, diciamo di sì. Diciamo di sì. Poi basta, che di solito lei proprio a gambe aperte si vede tutto. Ok, quindi lasciamo stare. È veramente. Sì, sì, proprio vestita solo di cappello e stivali. Va bene, caro Yuri, farò di tutto per farti arrivare il calendario 2008, l'anno della svolta. Non c'è nulla di quello che hai trattato tu. La canzone l'ho già scaricata. Com'è? Carina? Ma sì, mio figlio l'ha già imparata a memoria, la grande. Bene, tutti i giorni me la fa ascoltare. Molto bene. Yuri, un salutone. Buon Natale per Roma. Altrettanto, ci sentiamo a gennaio che si prosegue coi calendari, tanto va bene, male. Auguri anche a voi e a tutti gli ascoltatori. Ciao. Ciao. We'll be right back. anche quest'oggi, caro Frick, è stata con gli occhi che schizzano dalle orbite, venati di sangue, immagino. Confessiamolo, abbiamo un piccolo problema in questa settimana io, di Natale. Io soprattutto, grazie Ariel per la solidarietà, il ma direi papà che... del nostro piccolo bambino di riferimento, sì. Francè, lo ha abbandonato. No, ce l'ha lasciato cortesemente in visita. Ahia, quindi non lo sentiamo più a telefono, come eravamo soliti lui fare. Lui è partito con la segretaria. Il papà, esatto. Il papà e la mamma è a casa in coma, noi, crediamo. Noi adesso. Di pane, burro e rock and roll lo abbiamo affidato al grande vecchio, al nostro rocker di riferimento. Mento. Come non fidarci di Roberto Freccantoni, esatto, per custodire grazie. Il nostro Francè. Pane, burro e rock and roll! Sorpresa, sotto il tavolo. Ti abbiamo detto abituato. Che non puoi venire in diretta, stiamo no, facendo una trasmissione. Sta da lavorare. Tu devi star qua, buono, di là con Spadino. Lei è trasalito, io invece sono abituato oramai. quindi questo è il lavoro, poi ti deve fregnarci il lavoro. Francia, questo è un microfono, quello che stai dicendo, ti sentono tutti. Microfono, tutto il mondo? No, sì. Tutti quelli che hanno la radio. Anche i Motley Crue. Se hanno la radio accesa su Rock FM. I Motley Crue registrano con un microfono esatto, così. Esatto, fanno le loro questo canzoni. Questo è il microfono che usano i Motley Crue. Ciao allora, ciao Motley Crue. Puoi ciao. Salutarli? Sì. Posso salutare? Sì, salutali. Se guarda ciao come... Motley Crue, io a me piace il metal. Sì, non lo sappiamo. Guarda che ti piace. Come è intimidito però. Sì, perché mica avevo capito che della stanno i Motley Crue, ma stanno qua dentro. No, loro ci stanno ascoltando dall'America. Non stanno nel microfono. No, ma se ascoltano Rock FM, se stanno ascoltando un'altra roba non stanno ascoltando. Ma Rock FM non si sente manco a Milano ancora un po', come cazzo sì, fanno? No, quando tu ci sentivi in macchina, noi stavamo parlando in questo microfono qua, hai capito? Quando andavi storico. Ancora a scuola, visto che adesso a scuola non si va più. A scuola non ci va. Esatto. Ma tra l'altro, infatti, sì. Che volevo dire. Che mi volevi dire? Sì? Sentiamo. Si dica. Che cazzo ridi? No, non dica. Devo dire una cosa importante. Si dica. Ho scoperto. Sì. Il mio nuovo mito. Come un nuovo mito? Più dei Motley Crue. Sì, no, vabbè, i Motley Crue, ok. Un nuovo mito meta. Caravelli. Marco Caravelli. Caravelli, il mio mito lo scopo è numero uno. Metal. Direttore della radio. Direttore della radio. Marco Caravelli è il signore del metal italiano. Sì, di metal infatti. Sì, sì. Ho scoperto, c'è sta Arden Devi. Sì. Arden Devi, ma sì. Che cazzo serve a fare pane burro e rock and roll? C'è Arden Devi. Arden Devi è in un altro orario, di mattina facciamo questo e lui la sera fa metal. C'è posto per tutti. Sì, ma non serve il cazzo, metal. No. Allora oggi ho sentito che stava a fare una retrospettiva. Retrospettiva. Retrospettiva sui Tigers of Pantani. Tigers of Pantang. Tigers of Pantang. Tigers of Pantang. Tigers of Pantang. Molto bene, ci siamo arrivati. Io ci sono rimasto, no? È bellissimo. Adesso mi dato una cosa con queste Tigers of Pantang. No. Mi dato sul petto. Rosso che è fiamme, i teschi metal. No, ma non e può il whisky, le bottiglie Motley Crue sotto. No, devi imparare a non prendere tutto alla lettera. E se non c'è spazio mi faccio continuo sulla schiena e far giro. Con i serpenti morti, delle persone morte. Francè, prendi esempio da Marco Caravelli. Hai detto che è un esempio. Marco Caravelli. Non c'ha un tatuaggio, Marco. No. Neanche uno. No, sì. Tranquillo. Allora mi devo mettere la parrucca bianca. No, quello lì volendo, dipende se vuoi diventare come Caravelli. Non è proprio però, indispensabile. Per essere metal non c'è bisogno di scriversi Tiger allora, o Pantang allora sul bene, petto. Allora mi scrivo Marco Caravelli, Warlord of Metal. No? Cazzo, c'hai delle idee stamattina, Spadino. Hai detto cazzo? Sì, e non avrei dovuto. Caspita, Spadino. Caspita, Francè. Ha delle idee veramente. No, confonde, la capisco perché. Vedo che lei è più abituato. Confonde. Ma sentite, io ho un'idea. No, ma puoi anche oddio, non dircela. Oddio. Perché questa trasmissione, secondo me? Sì? Perché papà mio fa marketing. Marketing, sì. Perché sta trasmissione che dopo andate più famosi, sì? La chiamate pane burro e metal! Pane burro e metal! Perché non potrebbe facciamo... essere una buona idea, ma sì, non facciamo, ma non facciamo metal, solo metal. Oppure tipo marmellata metal! È lo stesso tante problema. Altre cose, insomma. Ti va di andare di là dal buon Spadino che non vede l'ora di tenerti per tutta la mattina? Non tanto, ma sai perché? Non motivo solo. Sa che è ricchione. No, è metal. Siediti però, siediti una... Perché è andato giù? Cosa gli hai dato? Gli hai dato la pasticca? Beh, sì. Ma è piccolino, non puoi dargli... Sì, è piccolino, ma è fortemente insopportabile. Almeno 3 ore, starà buono. Ma che ci hai già provato? Guarda, io non potevo fare altro. Io lo so, spiegherò al giudice che non potevo fare altro. Essendo un mercoledì, la puntata di oggi si chiude con Black Friday. Mancano 3 minuti precise alle 9 del mattino e come da promesso, noi come da promessa, noi vi tiriamo per le orecchie fino alle 9. Questo implica il fatto che questa è la fine, bravo Spadino. Ringrazio i numerosi amici e le amiche che si sono fatti sentire anche quest'oggi alle nostre coordinate. Qualche appuntamento importante per gli amici toscani e milanesi che sono curiosi di avere il calendario. Venerdì sera ci trovate a me, Max De Rio, all'ippodromo in quelle di Firenze, quindi amici toscani il raduno è lì. E sabato sera invece con Max De Rio e Claudia ci trovate all'Alcatraz in via Valtellina qui a Milano. Se volevate il calendario, lì ce lo trovate di sicuro. Per la patente davvero rocker quello è più un casino, ne parleremo più avanti, eh? Adesso non esageriamo come sempre. Pane, burro e rock and roll. Andiamo in archivio la puntata 149. La tua colazione rock. La ritrovate su radiorockfm.com. Pane, burro e rock and roll. Dove trovate anche i link per scaricare la nostra canzone Buon Natale per Rock e la preview del calendario. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato, ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Ed eccolo che torna anche il raggio di sole. Buongiorno Marco Garavelli. Buongiorno. Vuol dire che è una bella giornata, sì, oggi. Sì, sì, anche domani, dopodomani. Però sempre più, i primi giorni della settimana era più forte quel raggio di sole. Il raggio di sole, chissà. Pian piano. Vabbè, chiusura meteorologica. Come sempre, ultimamente. Sempre moscia la chiusura meteorologica, dovremmo inventarci qualcos'altro. Sì. Sicuramente l'augurio di una buona giornata fino al mezzodì, quando poi mollerai Baracca e Burattini a Mox Cristadoro. Esatto. Col quale ieri abbiamo avuto qualche problema, con te no, per fortuna. Ringrazio. Francetti ha trattato bene. Infatti lo ringrazio. Sei in medal, quindi a lui andava bene. Siamo a posto. Hai fatto il gestino, come dire. Gli ho allungato sotto la mazzetta, ho detto, mi raccomando, parla bene di me, perché altrimenti. Gli hai dato qualche audiocassetta dei Tiger of Pantanga. Sì. Ci sentiamo, ci vediamo, sì, buonanotte, ci sentiamo domani. Ci vediamo in questo istante, sì. Alle 7 domattina, ciao. Ciao, ciao.